Bom dia, essa é a rádio de poucas palavras. Porte gazzuno con usta e marre, na cupolella che vi si raizza, passa scambaniana battuleta, con mano a papà da fa guardare, tu vuoi fare americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa, tu vuoi vivere alla moda. Ma se bevi whisky e soda, poi sentiti stupato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma è sorta becca a me. Chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senti a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Come te può capire chi ti va bene, se tu la parli mezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna. Come te viene in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti di stupato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball. Ma è sorte vecchia me, chi te li dà la borsetta di mamma, tu va l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu va l'americano, tu va l'americano. Papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma è sorte vecchia a me. Chi te li dà la forzetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senti a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senti a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Thank you. starched white shirts, you will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around with.